permettete, se permettete una parola di convenevole in questo convegno che tradizionalmente riduce al minimo i convenevoli, però una parola di saluto è doverosa e non è di moda, soprattutto in un caso come questo, dove questo convegno particolare, fatto di una presenza molto concentrata e che si dedica intensamente all'attenzione, al lavoro e alla discussione, come sappiamo, perché è nato sulla base di colleghi dell'Alta Italia che si prendono di bocca, direi, un giorno e mezzo per riunirci a discutere di una data tematica e che quindi si dedicano totalmente a questo. Io l'ho sempre considerato, pur nella sua concentrazione e brevità, forse il convegno più qualificante del nostro istituto. Comunque ci ha accompagnati dalle origini fino ai nostri giorni. Quest'anno quasi rischiavamo di restar senza per un complesso di circostanze che un po' dipendevano dal non aver definito tempestivamente il tema, un po' dalla disponibilità di relatori che fino all'ultimo momento è stata oscillante. Purtroppo devo comunicare che Monsignor Mancini, sul quale avevamo fatto calcolo in modo precipuo, purtroppo per ragioni di salute ci ha dovuti lasciare, ma anche tentativi più illustri che avevamo fatto ancora nel novembre-dicembre scorso sono naufragati, così che per molti mesi ci siamo trovati un po' sull'incerto. Questo incerto, così dico, istituzionale è stato poi accompagnato dall'incerto personale, veramente, che tutti abbiamo sentito e condiviso, sentito profondamente, vero? Cioè la sofferenza del nostro caro Monsignor Sartori, che è sempre stato veramente l'ispiratore, il genius di questo tipo di convegno. E anche questo ci ha tenuto parecchio tempo su una incertezza dolorosa. Io devo esprimere qui invece veramente la gioia che, malgrado tutto, ci sia consentito di ritrovarci per questo convegno e ci sia consentito di ritrovarci con la presenza di Monsignor Sartori, che abbiamo di nuovo tra noi e che vorrei proprio in questa occasione e in questi giorni salutare con grande affetto e con tutta la stima. Forse più che in passato ci accorgiamo in questi giorni che tesoro abbiamo in lui, no? Voi sapete, grazie, veramente risponde al mio cuore questo applauso. Ecco dunque la prima cosa che dovevo dire. L'altra è una parola di ringraziamento, perché qui c'è stato chi ha lavorato veramente con dedizione, con costanza, e voi lo vedete dal dossier che è stato messo insieme ed è stato comunicato a tutti. In particolare dunque il coordinatore di questo convegno, che è stato il dottor Nicoletti, il professor Nicoletti, vero? E di cui qui abbiamo la chiara testimonianza, malgrado tutti i limiti, malgrado tutte le necessità di dover ristrutturare, di dover correggere o trovare altre vie, vedete che siamo arrivati in porto e io penso che anche così, anzi talvolta proprio quando le cose sono combinate così, la discussione si presenta quanto mai attuale e viva. Ringrazio i relatori che si sono lasciati adescare amabilmente, vero? E che sono presenti con il loro prezioso contributo. In particolare ringrazio il professor Prodi, che ci ha assistiti con una fedeltà straordinaria proprio in queste ultime contingenze, subentrando alla relazione o alla falla che ci era capitata, vero, per l'assenza di Monsignor Mancini, e che testimonia veramente la fedeltà con cui anche l'Istituto Italo-Germanico, fratello e vicino di casa, vero coinquilino, quando occorre o quando ci troviamo sulle salite ripide, è capace di darci una mano. Della tematica nell'ambito dell'Istituto Italo-Germanico si era parlato, indipendentemente dall'Istituto di Scienze Religiose, anche nei due anni trascorsi. Il professor Schiera aveva più volte cercato di coordinare un profilo di incontro, prima a livello di seminario più ristretto e poi in vista eventualmente di un incontro più ampio sulla tematica della teologia politica o del rapporto tra teologia e politica. Noi profittiamo in parte anche di questo lavoro e di questa riflessione, e per questo sono in dovere appunto di ringraziare anche il professor Schiera, che ha assistito il professor Nicoletti in quest'opera. Ecco, non vorrei aver omesso nessuno, io non entro in materia della tematica in questo tempo in cui mi pare che insomma per molti versi il tema è stato e viene messo a fuoco sempre con sfumature e colorazioni nuove, e quindi non posso che augurare che l'incontro corrisponda alle aspettative. Consegno la direzione del lavoro a Monsignor Sartori, vero che come sapete è anche presidente del comitato scientifico del nostro istituto e quindi ha piena autorità anche per presiedere questa riunione, vero, e non solo perché l'ha animata da dentro ma anche dal lato istituzionale, e lo ringrazio anche di questa fatica. Come presidente di questo istituto, meglio di questo comitato scientifico, io non dovrei dire dei grazie, ma mi piace fare il teologo non dal punto di vista di chi sta sopra ma di chi sta sotto. Qualche volta noi teologi caschiamo nel peccatino di voler anche esercitare un po' di potere, un po' di pressione almeno, ed ecco il documento che abbiamo firmato alcuni giorni fa e che ha destato un po' di sofferenza anche in noi, però nella Chiesa. Ma io sono convinto che nella maggior parte dei casi i teologi, almeno di quelli che io conosco, non si mettono a far teologia dalla parte di coloro che hanno l'autorità, ma si mettono veramente a far teologia dalla parte di coloro che, direi, soffrono i problemi, sono dentro i problemi e vorrebbero alzare la voce, farsi sentire, eccetera. Allora io ringrazio l'Istituto, Monsignor Roger, il segretario di questo Istituto di Scienze Religiose, e Nicoletti, che ci ha fatto un bellissimo lavoro, almeno dal punto di vista di coloro che finora l'hanno letto. Quelli che non hanno letto applaudiranno lo stesso, dicendo molto bene di lui. Ma voglio veramente esprimere il grazie a tutto questo personale e a questo istituto, a nome proprio dei teologi e degli altri che dalla base, qui dentro, insieme con me, che ascolterò me stesso, ma soprattutto gli altri, riceviamo questo dono. È uno dei pochi casi in Italia dove abbiamo veramente una offerta, una disponibilità, perché coloro che vivono pensando e pensano vivendo, o se volete meglio, coloro che sentono i problemi ma vogliono anche pensarci sopra, e non fanno pensieri astratti, ma fanno pensieri che vogliono un tantino far luce per aiutare tutti a camminare in avanti, e lo dico sinceramente, soprattutto la Chiesa, non per disprezzare il mondo, ma per dire che noi amiamo la Chiesa. Ecco, allora noi offriamo un grazie sentitissimo, perché queste due giornate, una giornata e mezza, che ogni anno ci vengono offerte, proprio per poter avere un luogo dove ascoltare, dove poter in breve riflettere. Bene, con questo ho detto tutto per il primo punto. Il secondo punto che volevo dire iniziando è questo. Il discorso che noi qui facciamo in questi due giorni è un discorso, diremmo, non nasce con noi, non siamo i primi, spero non siamo gli ultimi, ma è qualche cosa che si sente come problema in giro, brutta parola dialettale, ma insomma lo si vive questo problema. E voglio subito segnalare il fatto che qui a Trento, già 4 anni fa, questo discorso è stato già fatto, ecco gli atti, edizioni deoniane, cristianesimo e potere, di un incontro tenuto qui nel giugno dell'85, sotto soprattutto la pressione del professor Paolo Prodi, ma poi con il professor Schiera e tanti altri. Vi posso leggere i nomi, anche se ci vedo poco, un tantino, ma insomma ci sono qui dentro. Discorsi come due biblisti di chiara fama, Bonora per l'Antico Testamento, Segalla per un aspetto, e Pesce, un importantissimo discorso biblico del Nuovo Testamento. Poi il professor Bolgiani, dalla Germania ma non era venuto, Böckenforde, no? Poi Schiera, appunto, Ruffilli, uno degli ultimi interventi prima della sua scomparsa tragica. E poi Don Acerbi e Mancini. Quindi già qui l'Istituto di Scienze Religiose di Trento ha elaborato una riflessione più a livello proprio il potere come tale, che non è tutto il politico abbraccia qualche cosa di più vasto, anche se abbiamo visto, leggendo il dossier, che poi tutto sommato discutere di politica vuol dire anche finire nell'angolo, o un angolo saliente, casomai non discendente, del potere e dell'autorità. E poi abbiamo anche altri più recenti, direi, discorsi fatti a livello ecclesiale italiano. La Fucci, direi i laureati cattolici, non so se chiamarli proprio laureati, comunque c'erano anche i laureati cattolici. Io qui, per esempio, questo volumetto edito dall'AVE, Democrazia e potere nella società complessa, a cura di Tonini, e abbiamo lavorato a Napoli con contributi appunto che venivano dalla Fucci, ma soprattutto dai laureati cattolici. Di nuovo qui c'è Prodi, c'è Marongiu, c'è Ardigò, c'è Sartori, c'è Casavola, ecco. Questo è uscito dall'AVE nell'89, l'87, adesso non ricordo bene, ecco. È difficile trovarlo, insomma un anno e mezzo fa, 2 anni fa, quando stavo abbastanza bene ancora. E poi abbiamo recentissimamente, appena uscito, un numero della rivista della Fuci Ricerca, che pubblica presso poco i resoconti, i sunti o anche qualche relazione completa del convegno tenuti a Camaldoli l'anno scorso durante l'estate, e dove gli autori di questi interventi sono alcuni che noi avevamo anche invitato, oltre che Acerbi, che verrà, c'è un bellissimo sunto, Chiesa, democrazia e conflitto sociale, Pino Ruggeri, che noi avevamo sollecitato a venire, non può venire, si trova a Bologna per la rivista Concilium da oggi fino al sabato, e qui c'ha un lungo discorso che riprende anche lui la tesi di Schmidt, eccetera, Chiesa, esperienza storica, testimonianza del regno, e poi oltre a un'interessantissima riflessione di Biancalani, c'è una relazione di Casavola e un ragguaglio, anche quello, sulla teologia politica, ripartendo dall'illuminismo e soprattutto attraversando Schmidt, ed è opera di due giovani, Giuseppe Boschini e Alberto Tondi, per dire, ecco, che noi ci poniamo dentro un dibattito che è sentito, anche se le parole forse non sono sulla bocca di tutti, tuttavia questa sensibilità per il problema del rapporto teologia e politica. Io vorrei che in questi giorni, in queste 2 mezze giornate, fosse più presente questa, direi, tematica, teologia e politica, più che direttamente fede e politica, ma comunque lasciamo libero il discorso di ciascuno di noi per poter dare un contributo. Dunque è un qualche cosa che si sente, quasi tutti poi quando fanno riferimento a questi discorsi da un anno citano il fiorire, il sorgere, non dico il fiorire intanto, il sorgere di molte scuole di politica da parte, diremmo, di ecclesiastici o di persone sensibili all'afflato religioso, quasi quasi per sentire che l'apostolato deve diventare così concreto da non ridursi a un apostolato che avvicina anime, persone, ma un apostolato che intende riaffrontare il problema dei progetti che riguardano la comunità, eccetera. Ecco, dove noi collochiamo, almeno io umilmente mi permetto di collocare questo nostro discorso, umilmente, non siamo i primi, gli ultimi, tantomeno gli unici, però noi vogliamo collocare questo dibattito il più possibile, direi, assumendo la sensibilità e la problematica che sono vissute realmente e non artificialmente nella fase attuale dell'umanità, dell'umanità, della comunità italiana, della Chiesa. Ma vorrei, mi permettete, di contestuare questo nostro discorso anche con un avvenimento. Avrei voluto, lo lascio così alla nostra meditazione e sofferenza, anche contestuare questo nostro discorso con l'attuale momento in cui la CEI sta discutendo a Roma un po' i problemi della pastorale italiana. Io penso che dovremmo tenere sullo sfondo anche questo riflusso nella teologia e nella Chiesa di un dibattito apparentemente esterno e politico. Se è vero, come risulta ampiamente ormai, che il mondo politico ha assunto concetti, criteri, modelli dal mondo religioso, secolarizzando un patrimonio che prima appariva cristiano, è altrettanto vero che adesso tutta questa ricchezza ripensata, dosata, purificata dallo stesso pensamento laico, deve veramente tornare dentro la Chiesa, non per dire torniamo alla casa materna, alla casa paterna, ma per dire che questo gioco che la provvidenza dispone nel mondo, io lo sogno, questo gioco per cui qualche cosa fa la Chiesa e inizia magari profeticamente, ma poi questo qualche cosa, ecco la palla che scappa dall'altra parte, ecco, viene ripresa dalla cultura laica, non è che sia fuori dal discorso di una provvidenza, io ci credo molto alla provvidenza, è qualche cosa che fuori della Chiesa magari viene evidenziato anche meglio e poi viene restituito, viene restituito. Questo io l'ho verificato, non ho studiato molto il politico, ma il tema carisma, istituzione, l'ho verificato da quando nella Chiesa cattolica, almeno, ma direi anche protestante, infatti è stata l'accentuazione protestante che ha determinato un po' la sensibilità cattolica, da quando questo discorso sui carismi è diventato teologico dentro la Chiesa cattolica, da quando, diremo lontanamente già Runner, poi King, eccetera, hanno, direi, preso in considerazione la laicizzazione, la secolarizzazione di questi criteri di carisma e istituzione. Dalla fine del secolo scorso, Zom, Arnach, poi Weber, la sociologia, eccetera, Troelsch, eccetera, venendo su, si arriva a accorgersi che dobbiamo riaffrontare il problema dei carismi in rapporto all'istituzione da quando questo discorso era diventato di dominio normale nella sociologia, normale nella cultura laica. E difatti chi legge le opere di Rahn, di Kung e di Hasenquist sul tema dei carismi si accorge che non hanno fatto altro che ritradurre in termini di nuovo teologici cristiani un dibattito che era, direi, ormai diventato di patrimonio culturale, diciamo così, mi permettete la parola, esterno alla Chiesa. Bene, presso poco, io leggendo anche il dossier prezioso che ci ha fornito Nicoletti, ho intravisto qualche cosa di analogo e ormai dobbiamo ripensare tutto in maniera universale, tutto il patrimonio del cristianesimo come tale noi lo dobbiamo leggere anche nel riflesso che esso ha realizzato o determinato in qualche cosa di speculare, di fuori di noi. E pensare che anche la psicologia ci dice che ognuno raggiunge meglio la sua identità quanto più si specchia nell'altro, quanto più gli viene restituita la sua immagine. E la Chiesa, secondo il Fries, non deve soltanto leggere le sue intenzioni pittoriche quando descrive la sua immagine al mondo, ma deve anche accogliere l'immagine che il mondo le restituisce per capire se stessa. Ecco dove io colloco. Bene, allora colloco questo discorso con l'evento di Basilea. In questi giorni, più che a livello di CEI, la quale sarà indaffarata, e speriamo che lo Spirito Santo veramente aiuti anche i nostri vescovi a pensare come essi devono tener conto di una reazione culturale che arriva loro anche mediante i teologi, che sono manovali, se volete, sono povera gente, ma che la Chiesa non deve sentirsi umiliata quando riceve apparentemente dal basso, da altri, brutte parole questo, dal basso, da altri, ma riceve. Il farsi recettiva, il farsi ricevente, accogliente, è intrinseco all'essere Chiesa. Quando Dio stesso, il dogma dell'incarnazione, è presente in questi teologi che noi abbiamo sotto mano, il dogma dell'incarnazione ci dice che Dio, non secondo il film di soltanto ha avuto bisogno degli uomini, ma veramente si è a parole, ma ha voluto attingere dall'umano. Bene, questo discorso. E Basilea, perché io recentemente, domenica scorsa, ero a un convegno ecumenico di Verona, dove si discuteva appunto dell'ecumenismo in rapporto a Basilea. E ho detto questo, praticamente lo dico come contesto nostro. Abbiamo un'occasione enorme in cui la Chiesa, le chiese meglio, possono finalmente realizzare quello che nel canone quinto e poi nell'ambito del Consiglio Ecumenico delle Chiese si sta studiando, quello che viene detto con le parole: la Chiesa, invocando lo Spirito, chiede di essere, diventare nel mondo segno profetico di unità e di pace. Stanno le chiese, diremmo, tentando di riformarsi come chiese che servono anche all'unità, mettiamo, dell'Europa. Questo convegno di Basilea è un convegno in cui si vedrà se le chiese europee, cattoliche e non cattoliche, arrivano a diventare forza politica per l'Unione Europea, ma in maniera utopica, o meglio, in una maniera più ideale di quella che è stata concepita, e direi più che dai padri fondatori dell'Unione Europea, da coloro che gestiscono attualmente l'Europa. Quando alcuni anni fa, all'inizio del suo pontificato, questo nostro Papa aveva, direi, gettato un'arma, ecco, contro una concezione riduttiva dell'Unione Europea, solo l'Europa dell'Occidente, sostanzialmente poi economica, e aveva detto l'Europa vera è quella più grande, e ha parlato dei due polmoni, di un'Unione Europea nella quale si tenga conto anche dell'altra faccia dell'Europa, qualcuno, anche tra i cattolici, ha mugugnato, come, di cosa c'entra questa discorso qua? Altro è l'Europa dell'Est, altro è l'Europa dell'Ovest. Ma adesso, con la perestroica, per intenderci, noi vediamo che diventa importante pensare a un concetto di unità più alto, al di sopra dell'economia. Ed ecco, è così è sentito, io penso, almeno ho letto i documenti prima, il primo e il secondo, vedremo alla fine cosa ci dirà sabato 21, venerdì, questa riunione, questo incontro di Basilea. In questi documenti si mette in evidenza il fatto che le chiese che si uniscono a parlare di Europa, a parlare di quella che sono le chiese dell'Est e dell'Ovest, sono le cattoliche, le protestanti, gli ortodossi. Cioè, idealmente parlando, le chiese unite a Basilea affrontano un concetto di unità dell'Europa che trascende i limiti economici dell'Europa del 92 e 93. Come vedete, il recupero di una dimensione politica è quello che fa questa associazione della CEC, le Chiese Europee, e il Consiglio delle Conferenze Episcopali Cattolico a Basilea, lo fa poi l'ecumenismo a livello mondiale, con dentro la Chiesa Cattolica, che dovrebbe essere un'anima ancora più animante di questo concetto. Cioè, il cristianesimo, ma insieme con le altre religioni, deve diventare un fermento anche politico di quell'unità dei popoli che deve rappresentare finalmente un cammino di pace. Tutti i discorsi si tengono oggi, pace, disarmo, unità dell'Europa, ma del mondo, sono tutti collegati. Ed ecco la provocazione, è in questo contesto che io collocherei questo nostro discorso. Basta, adesso veniamo al tema. Il tema io lo conosco solo, confesso la mia ignoranza, in parte, nonostante che abbia fatto anche un articolo qui nel Cristianesimo e Potere, poi nel discorso di Napoli pubblicato dall'AVE, mi sono trattenuto però più dentro l'area della teologia professionale, più che non un discorso così dire, di confine tra il mondo filosofico, giuridico, teologico propriamente detto, cattolico, non cattolico, eccetera, dove il concetto di teologia e anche di politica sono vasti, si intersecano, trascendono la teologia scolastica, la teologia funzionale nelle scuole, eccetera, eccetera. E allora io avevo, qui sì, sono il colpevole, ma sono contento di aver fatto questo peccato, anche perché mi sentivo poco bene, ho detto no, bisogna che i convegni siano preparati da un bel dossier e che non dobbiamo ascoltare sempre conferenze che ci narrano, e attraverso questa mia pungolazione è nato questo dossier. Quindi la mia idea sarebbe questa, che si dovrebbe molto discutere, avere tempo per discutere, e si dovrebbe dare un po' per letto il dossier, darlo un po' per letto, di modo che le relazioni dovrebbero essere contenute sufficientemente nel tempo per poter dare spazio alla discussione, e che direi soprattutto sfaccettino degli aspetti del problema, non ridicano le questioni già sistematicamente, diremmo, dette dal dossier, e quindi sfaccettino. Quindi teoreticamente parlando, questo era il nostro desiderio, ma io sono convinto che i convegni si possono, diremmo, più che programmare, poi interpretare alla fine. E alla fine che io potrò dire che cosa in questo convegno è stato detto. L'altro giorno ho concluso un convegno dei liturgisti e ho mostrato che da quel momento si poteva finalmente cominciare il convegno. La mia relazione finale aveva questo senso. In questi 3 giorni io adesso avrei colto questo per poter poi maturare un cammino. Vedremo. Quindi io non so che cosa ci riserverà la giornata di domani. Allora, al posto dell'unica variante, mi sembra che sia questa, al posto del professor Mancini c'è il professor Prodi, il quale però, come vi ho dimostrato prima, era già all'inizio, aveva già avuto l'iniziativa di questo convegno precedente. E per il resto, dunque, stiamo secondo la tematica.